Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche chiaramente di borse. Devo dire, non che ci si stia facendo l'abitudine, ma almeno non è la prima volta che vediamo borse crescere per 2-3 sedute e poi calare. Oggi meno 2,80% Milano, di sotto i 17.000 punti a 16.600 punti, e come è avvenuto anche in altre sedute nelle scorse settimane, calano soprattutto i titoli bancari. Pop Emilia Romagna meno 7, Monte dei Paschi meno 6, che avevano recuperato, non tutto, ma avevano recuperato in questi ultimi giorni, e ancora Banco Popolare meno 5%, Pop Milano meno 4,70%, UbiBanca meno 3,70, male anche Mediaset meno 6,30%, sotto i 3 euro per azione, e negativi anche titoli non legati chiaramente al settore bancario, e mi riferisco a Ferragamo meno 5,60, Yux Net-a-Porter meno 5,60, e i titoli legati al settore della moda e del lusso calano nel giorno in cui, e ne parleremo perché sarà oggetto di questa puntata, c'è stata la visita, come vi hanno raccontato i nostri GR24, del Premier Matteo Renzi in Lombardia, più che a Milano, perché è iniziata a Lodi, poi è proseguita a Milano per l'apertura appunto della settimana della moda femminile, e poi la presentazione al Piccolo Teatro del progetto Post Expo. Ancora, per quello che riguarda i temi legati alla cronaca economico-finanziaria, ci occuperemo anche, come annunciato e promesso, della spending review, ossia del balletto di cifre che è girato in queste settimane. Prima 48, poi il Premier ha detto 25 miliardi di tagli, riduzione della spesa. C'è chi obietta, no, attenzione, è salito invece il debito pubblico, dove sono i tagli alla spesa. Tutto nasce però, diciamo, dalla relazione del Presidente della Corte dei Conti nell'apertura dell'anno giudiziario, in cui ha detto attenzione, la spending review è stata fatta lasciando delle volte non entrando nel dettaglio, e quindi ha detto parziale insuccesso della spending, anche per la poca conoscenza delle diverse categorie di spesa, e ha posto solo sullo sfondo il tema essenziale dell'interrelazione con la qualità dei servizi. Cioè, l'accusa è che se tu non conosci le voci di spesa e vai a tagliare, rischi di ridurre la qualità del servizio erogato. E questo è un fronte, ne parleremo con il commissario alla spending review, nonché consigliere economico del Premier Renzi, mi riferisco a Joram Gutgeld. Parleremo anche appunto degli elementi economici toccati in questa giornata lombarda o milanese lodigiana del Presidente del Consiglio, della borsa. Ovviamente sui titoli, oltre a quelli che citavo, segnalo anche una debolezza di tutto il settore auto e del gruppo Fiat. CNH perde il 4,70, Fiat il 4,40%, con la conseguenza che cede anche Xor. Va male il titolo Tenaris, meno 4,70% anch'esso, e continuando sul lusso, Luxottica perde il 3% e Tozzi il 3,30%, dimostrazione di una giornata debole. Nonostante i cali di CNH e di Fiat, Xor ha recuperato, adesso guadagna l'1,40% e assieme ai Italcementi più 0,30 è l'unico titolo positivo. Euro quota 1,10. Che cosa è successo di nuovo? Nulla di particolarmente nuovo, se non un petrolio che ha perso quello che aveva recuperato in questi due giorni, il 3,6% a $30 al barile. L'agenzia di rating Fitch ha stimato che il prezzo nel 2016 in media sarà intorno ai $35, abbassando la stima da $45 a $35. Invariate invece le previsioni di lungo termine, con un petrolio a $65 al barile. Ma faccio notare che oggi il ministro delle finanze russo Siulianov ha detto che la crisi economica in Russia ha un carattere a lungo termine, quindi si prepara a lavorare nelle condizioni attuali per un lungo periodo. È arrivato un abbassamento di voto al Brasile, portandolo a junk dall'agenzia di rating Standard & Poor's, ma anche dall'agenzia Fitch è ora da quella Moody's, per cui tutte e tre sono su questo allineate. Peggioramento del quadro economico, anche qui minori introiti per la vendita di petrolio, paralisi politica del paese, e ci si aspetta che il Brasile quest'anno faccia un meno 3,5% dopo il 3% di calo registrato l'anno scorso nel PIL brasiliano. Vedo molti messaggi sulla borsa, ma ripeto, altre grosse notizie su questo non ce ne sono. I petroliferi e Tenaris perdono sulla base anche del calo del prezzo del petrolio, così come oggi in borsa cede sempre su questa motivazione Eni, che perde il 2,80%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo comunque di moda, perché appunto iniziando la settimana milanese della moda faremo anche il punto su uno dei settori, dei quattro settori portanti del nostro Made in Italy. Sì, giustamente fate notare, volete sapere gli altri indici, sono, devo dire, identici a Milano, meno 2,35% Parigi, meno 2,80% Francoforte, Londra perde un po' di meno invece, meno 1,60%, il Dow Jones sta perdendo l'1,40%. Altre notizie di carattere internazionale, ci sono anche dichiarazioni che arrivano da Bruxelles per quello che riguarda il bail-in, quindi il salvataggio che dal 1 gennaio viene fatto, è un salvataggio interno nel caso che una banca vada in difficoltà, ed è un salvataggio che secondo le nuove regole coinvolge in primo luogo gli azionisti, poi gli obbligazionisti di qualunque categoria e poi eventualmente anche i correntisti sopra i 100.000 euro. Devo dire che oggi su questo è intervenuto il commissario alla concorrenza Margrethe Vestager, ha detto attenzione, non c'è in questo momento l'idea di procedere a una revisione del bail-in né sugli aiuti di Stato. Il GACS, il fondo di garanzia sui prestiti in sofferenza, quello che ha ottenuto alla fine l'Italia con un meccanismo abbastanza complicato, ma la creazione di tante piccole bad bank, oppure meglio dette società veicolo, dove le banche trasferiranno le loro sofferenze, i crediti che non possono più riscuotere, e a quel punto le metteranno sul mercato cartolarizzandole, potranno avere la garanzia dello Stato, della CDP, solo pagando e solo per quelle di maggiore qualità. Tutto questo meccanismo è stato commentato dal commissario alla concorrenza Margrethe Vestager, che ha detto è uno strumento intelligente e ordinato quello messo in piedi dall'Italia. La crisi finanziaria ci ha insegnato quanto il sistema bancario sia importante per l'economia nel suo insieme. Dall'inizio della crisi abbiamo fatto molta strada. Il 1 gennaio di quest'anno un nuovo tassello dell'unione bancaria è stato messo a punto, ossia il meccanismo singolo di risoluzione. Il bail-in, il salvataggio interno, è la regola per proteggere gli stati e i contribuenti. Le perdite del settore saranno finanziati dagli azionisti, obbligazionisti e correntisti. Si potrebbe essere tentati di indebolire le regole e aspettare fino a che l'economia non si sia ripresa del tutto. C'è anche la tentazione di dire che gli stati dovrebbero aprire il portafogli e risolvere il problema dell'alto livello dei crediti deteriorati. Credo che dobbiamo resistere a queste tentazioni. Le significative perdite del settore sarebbero ancora maggiori senza la presenza di regole. Riguardo lo strumento italiano, il GACS, ossia il Fondo di Garanzia sui Prestiti in Sofferenza, penso sia un mezzo intelligente e ordinato per affrontare e superare questi problemi. E poi, sempre in tema di Unione Europea, un altro commissario, o meglio il vicepresidente per l'euro della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ha detto che i rapporti paese per paese sugli squilibri macroeconomici, quelli anticipati ieri da alcuni mezzi di stampa, verranno pubblicati venerdì. E le decisioni invece su eventuali procedure arriveranno nelle prossime settimane. Ne abbiamo parlato ieri sulle anticipazioni, in cui si sottolineano le riforme fatte in Italia, ma anche cosa manca all'Italia, alcuni squilibri di carattere macroeconomico, che vuol dire soprattutto per noi il debito. E poi Dombrovskis aggiunge: l'Italia, come altri stati membri, deve tener conto di questi rilievi che arriveranno ufficialmente venerdì nel rapporto sugli squilibri macroeconomici. Ci aspettiamo che l'Italia si faccia avanti con proposte su come affrontare questi disequilibri. Pubblicheremo i rapporti paese per paese questo venerdì, mentre le decisioni su eventuali procedure arriveranno nelle prossime settimane. L'Europa sta segnando ancora un ritmo moderato nella ripresa economica. Ci sono rischi per lo scenario economico dovuti soprattutto al peggioramento del contesto esterno. Le debolezze strutturali messe in luce dalla crisi devono ancora essere affrontate pienamente da un certo numero di membri. È importante che gli Stati accelerino sulle misure per sostenere la stabilità e la fiducia, per affrontare gli elementi di vulnerabilità, come l'alto livello di debito pubblico e privato. I risultati dei rapporti per paese sugli squilibri macroeconomici di solito devono essere rappresentati nei programmi nazionali di riforme e stabilità preparati dagli Stati. Gli Stati membri forniscono la loro valutazione delle sfide che devono affrontare e speriamo che i nostri rapporti possano assistere gli Stati nella loro preparazione. I paesi avanzano anche delle proposte su come affrontare gli squilibri. Questo è esattamente il caso dell'Italia, quindi ci aspettiamo che l'Italia arrivi con proposte su come affrontare questi squilibri. Italy to come with proposals how economic imbalances are going to be addressed. E parleremo di Europa, perché ha toccato il tema poco fa anche il Presidente del Consiglio, sempre nella sua visita milanese. Ha detto l'Unione Europea non sia vincoli ma valori, altrimenti non è. Però vedo molti messaggi sulle dichiarazioni di Weidmann di oggi. Sì, sicuramente possono aver inciso sulle borse. Il presidente della Bundesbank oggi è uscito allo scoperto. Perché? Perché mancano 2 settimane all'incontro della Banca Centrale Europea, quello in cui Draghi sostanzialmente ha fatto capire le settimane scorse, in cui dicevo potrebbe essere deciso un rilancio del quantitative easing, quindi acquisti ancora più consistenti di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, che in questo modo va a stampare euro. È uscito allo scoperto Hans Weidmann, il quale ha detto sostanzialmente no, evitiamo misure esotiche, le ha chiamate, e anche consiglia, lui è presidente della Bundesbank, cioè della Banca Centrale Tedesca, ma è anche consigliere della Banca Centrale Europea. Ha detto che oggi che comprare più debito dei paesi che hanno lasciato crescere il proprio debito potrebbe essere frainteso, e quindi in riferimento all'ipotesi che la Banca Centrale Europea rimuova il cosiddetto capital key, ossia la regola che stabilisce che la Banca Centrale Europea può acquistare debito dei vari paesi in proporzione alla quota di ciascun paese nel capitale della BCE stessa. Però è sembrato un paletto forte a possibili nuovi interventi di Draghi. Su questo probabilmente si è raffreddata la borsa, non mi sembra l'unico elemento, ma sicuramente un elemento che ha contribuito, e forse non poco. L'Italia, allora, l'Istat oggi pubblica un rapporto sulla competitività dei settori produttivi e dice per le metà delle imprese manifatturiere che hanno aumentato l'occupazione tra gennaio e novembre, a pesare in senso positivo non è soltanto il Jobs Act, ma gli sgravi contributivi. Anche qui traduco: i dati che hanno visto aumentare i tempi indeterminati sono più frutto, questo non è la prima volta che lo sentiamo dire, del vantaggio nell'assumere dal gennaio a dicembre dell'anno scorso, perché si risparmiavano fino a 8.000 euro all'anno di contributi, più che il Jobs Act in sé. Il nuovo contratto tutele crescenti sembra aver esercitato un ruolo meno rilevante, pur sempre positivo. il 35% delle imprese lo ha giudicato molto abbastanza importante, contro il 50% delle imprese dei servizi, ma la quota di imprese che ha ritenuto la novità della decontribuzione molto abbastanza importante è pari al 61%. Poi l'ISTAT fotografa uno zoccolo di imprese italiane sempre attive, quindi quelle che in tre anni hanno creato 1.100.000 posti di lavoro, che sono circa sono le aziende che chiudono i bilanci sempre in attivo. Si sono creati 1.100.000 posti di lavoro, 845.000 si sono persi, il saldo positivo è di 255.000 posti di lavoro creatisi tra il 2013 e il 2015. E poi sempre in questa indagine scopriamo che solo un quarto dei disoccupati italiani, il 26%, cerca lavoro tramite i centri per l'impiego pubblico, altri 8 su 10, cioè la stragrande maggioranza, l'84% per la precisione, si rivolge ad amici, parenti e conoscenti. E devo dire che in un paese come la Germania, che usiamo quando necessario come modello, ci mancherebbe, il rapporto è l'opposto, cioè il 75% dei senza lavoro si rivolge ai centri pubblici per l'impiego e solo il 40% chiede ai conoscenti. Nel resto d'Europa la media è un po' più simile a quella italiana, va detto, 70% chiede anche ai conoscenti, 46% utilizza i centri pubblici per l'impiego. Diciamo che se la media di chi utilizza i conoscenti e amici per cercare un lavoro è abbastanza simile, l'Italia 84, la media europea 71, quella che è molto diversa è la media rispetto alla media europea di chi utilizza i centri di collocamento, che evidentemente in questo paese non funzionano, e sono solo appunto in Italia il 25%. E poi in cauda venenum, brutto il dato del fatturato dell'industria nell'ultimo mese dell'anno scorso, a dicembre meno 3% rispetto al dicembre del 2014, è il peggior calo del fatturato dell'industria dall'agosto 2013, come appunto anno su anno. Certo, il 2015 chiude con un rialzo, lo fa notare l'Istat, dopo tre anni di cali continui il fatturato dell'industria italiana segna un più 0,2% in tutto il 2015, che è poco, che è pochino, nel senso che siamo ancora ampiamente sotto i livelli del 2008. Devo dire che tra l'altro è tutto dovuto al mercato estero, all'export, più 1,2% il fatturato verso l'estero, meno 0,2% il fatturato sul mercato interno. Ho capito che c'è il segno più 0,2 meglio che meno 0,2, però attenzione, perché questo vuol dire, ed è un'altra conferma assieme ai dati sull'inflazione, che non è e non sta ripartendo la domanda, i consumi interni. Poi uno può dire quello che vuole, colpa dell'Europa, è colpa di tutto quello che volete, ma dire che stiamo ripartendo come paese internamente è una balla, non c'è un dato che ce lo stia dimostrando. Gli ordinativi invece sono andati bene, più 5%, e in questo caso grazie anche a ordinativi commessi sul mercato nazionale. Il problema è che tu puoi fare un ordinativo sul mercato nazionale, ma poi il fatturato lo vendi, l'aumento di fatturato è tutto legato all'estero. Su questo comunque si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Ancora dati in chiaroscuro, l'Istat ci avverte che i ricavi nell'industria calano a dicembre sia su base mensile, meno 1,6%, sia su base annua, meno 3%, con risultati negativi sia sul mercato interno che oltre confine. Una frenata che riguarda un po' tutti i settori, dai prodotti di consumo ai beni strumentali. I segnali positivi registrati dall'Istat riguardano invece gli ordini nazionali, in ripresa di quasi 8 punti a dicembre, sempre su base annua, un dato che compensa bene il calo invece delle commesse oltre confine, che hanno perso il 6,1%. La ripresa del mercato interno è visibile anche nel bilancio dell'intero 2015, con commesse che sono in crescita dell'8,6%, mentre, come si diceva, quelle che riguardano l'export crescono solo di 7 decimali. In media la crescita degli ordini diventa del 5,2%, che comunque è il massimo dal 2010. L'Istat ha diffuso anche il rapporto sulla competitività, in cui l'Italia ancora una volta non può parlare di una vera svolta. Miglioramenti sì, ma svolta ancora no. Importante è la sottolineatura che fa l'Istat sull'occupazione. I miglioramenti sono stati trainati prevalentemente dagli sgravi contributivi, che hanno svolto un ruolo fondamentale, dice l'Istat, per la crescita dei nuovi posti di lavoro. La conclusione più generale del rapporto, però, è che le imprese ancora non vedono una ripresa robusta della domanda. Per farlo, effettivamente, servono investimenti, soprattutto pubblici, in questa fase, ma serve anche un bilancio che lo possa consentire e serve anche un'Europa che non si metta in cattedra con la matita rossa se l'Italia chiede più flessibilità. Un tempo si diceva che quando ci sono molti disoccupati, impianti produttivi poco o nulla utilizzati, quando il risparmio del cittadino resta accantonato e non trova sbocchi produttivi e quando un paese, unico in Europa, mantiene orgogliosamente un avanzo primario, è davvero il momento di investire, con denari pubblici e non, e quel momento è adesso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Adesso andiamo su meteo e pubblicità e poi torniamo a commentare, diciamo, la parte economica della visita di Renzi e delle dichiarazioni di Renzi. Oggi il sistema della moda italiana, che sì, appunto, che da oggi al 29 febbraio per la parte femminile ha uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, e così faremo anche un bilancio. E poi dopo, nella seconda, dopo la borsa, che vi dico subito ha chiuso con un calo del 2,70%, peggio ha fatto Francoforte, meno 2,80%, e Parigi meno 2,20%. Dicevo, nella seconda ora del programma invece ospite il commissario alla Spending Review per fare un po' di chiarezza su queste cifre ballerine, su quanto abbiamo ridotto la spesa pubblica o vorremmo ridurla, su cui anche noi stessi ci siamo un po' persi, o meglio dire non ci troviamo proprio. Meteo. Focus Economia. Allora, vedo molte mail e WhatsApp sui temi della crescita. Guardate, a me non me ne frega nulla se qualcuno ritiene che lecchiamo il governo Renzi, non mi sembra proprio, però può pensarla come vuole. I dati che noi diffondiamo sono i dati dell'Istat, per cui primo aspetto. Secondo aspetto, invece, c'è una notizia che ho dimenticato di leggere, adesso vi arrivo, non c'entra nulla col mondo della moda, però ricordate quando ci occupammo della bassa natalità in questo paese, a meglio, natalità ai minimi dall'Unità d'Italia e mortalità ai massimi, e le politiche per la famiglia. Facciamo anche un po' di polemica sul fatto che la famiglia è utile solo quando se ne parla solo quando i temi sono etici, mai come politiche fiscali per la famiglia, quoziente familiare, quant'altro, la detrazione delle spese per babysitter o per badanti. Comunque, perché lo dico? Perché oggi l'Osservatorio Nazionale Fede Consumatori è andato a calcolare quanto costa mantenere un bambino nei primi 12 mesi e continua a aumentare la spesa per mantenere un neonato. Nel primo anno di vita costerà da 6.950 euro a 14.000 euro, il 3% in più rispetto al 2015. Per le famiglie è possibile risparmiare, sottolinea Fede Consumatori, prestiti tra familiari, amici e anche sconosciuti. Le spese principali spiccano quelle per latte e pappe tra i 1.700 e i 3.680 euro, vestiti e calzature tra i 1.000 e i 2.000 euro, visite mediche e poi altre vestiti e calzature tra i 1.000 e i 2.800 euro, poi altre voci, visite mediche, pannolini, visite mediche tra gli 800 e i 1800 euro, i pannolini tra i 700 e i 1000 euro. Sottolineo che in Italia i pannolini non si è mai capito perché costano più che in altri paesi, per cui attenzione, perché poi ti chiedi perché non si fanno figli. Se a fronte di un'inflazione pari a zero aumentano le spese del 3% in media, la risposta te la sei già data. Allora, il premier Matteo Renzi oggi prima a Lodi, poi a Milano, è tornato sui temi che fanno parte dei suoi interventi. L'Italia Abbiamo un anno per dare ancora più fiducia all'Italia, basta piangersi addosso, Milano guidi il cambiamento sui progetti che riguardano il paese, avanti tutta. E poi c'è un'Italia che non ne può più di chi critica, sono orgoglioso di essere qui, riferito all'azienda che ha visitato a Lodi, la ICR, che ha annunciato appunto l'assunzione di 182 persone con il Jobs Act. Mi do un anno per dare più fiducia all'Italia. Imprenditori che anziché metterli in tasca i soldi li mettono in azienda, nel 2016 avranno uno sconto fiscale, il cosiddetto superammortamento, 140%, potranno quindi avere un ritorno per tutti i beni che comprano maggiore del valore che investono. È un fatto positivo, è il tentativo di dire ripartiamo tutti insieme, e io prendo l'impegno che da qui a un anno l'Italia sarà un paese che avrà sempre più fiducia in se stessa e sempre più fiducia nel futuro. Allora, su questo poi c'è stata la parte milanese, diciamo, della visita, ma non mi interessa la visita in sé, ma quello che chiaramente è stato detto l'ha seguita la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Ciao Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Ecco, chiarisco anche perché oggi si apre a Milano la Milano Fashion Week, quindi 184 collezioni, più 30% rispetto al 2015, molte sfilate per gli addetti ai lavori, ma lui ha toccato anche il tema chiaramente dell'apporto che il sistema moda italiano dà al PIL del paese. Raffaella. Sì Sebastiano, come ricordavi poco prima anche nella prima tappa, questo è un po' il tema, il filo conduttore di questa giornata lombarda per il Premier, cioè il disegno di un'Italia che è liberatasi da polvere, discussioni e da atteggiamento remissivo, come ha detto più volte, torni ad essere un paese petaloso, questo è stato l'aggettivo che ha usato il un paese petaloso, un aggettivo che è stato il tormentone su Twitter da ieri, è un aggettivo che la Crusca ha appena messo nel gergo italiano per indicare un paese con più ambiti di azione e quindi per questo attraente. Lo ha detto adesso nell'ultima tappa, quella al Teatro Piccolo, dove ha illustrato e commentato i progetti del Post Expo, lo aveva in qualche modo tratteggiato anche prima nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, dove ha incontrato i big della moda. Questo è stato il filo conduttore di questa sua giornata, appunto agli stilisti e così come anche agli stranieri che sono presenti a Milano per la stilata della moda. Matteo Renzi ha promesso che l'Italia is come back, come possiamo forse anche ascoltare in sottofondo, e ha detto che l'Italia is come back. This is the message, very simple. Ha detto che l'Italia è tornata, che ora guarda al futuro, che quindi la sfida in questo momento è quella di un paese che non vuole più vivere di nostalgia ma di futuro. Ed è stato il primo Presidente del Consiglio a partecipare alle stilate di moda, una vicinanza mancata in passato, come non ha mancato di marcare Giorgio Armani arrivando appunto a questo pranzo, e Renzi ha risposto indicando proprio come un modello questo settore cruciale dell'economia italiana. Sentiamo il Premier. La moda o è innovazione o non è, la moda o è cambiamento o non è. Allora da questo punto di vista il mondo della moda insegna a noi quello che deve essere il futuro dell'Italia, non un paese che vive la nostalgia, e la nostalgia pure è un sentimento emozionante, bellissimo, ma un paese che vive la curiosità molto più laboratorio che museo, molto più innovatore che è tradizionalista. Questo è ciò di cui oggi l'Italia ha bisogno, che la moda in qualche modo prepone, ma c'è bisogno anche da parte nostra di maggiore sistematicità. Allora, grazie Raffaella Calandra, adesso parleremo della moda. Mamma mia, ragazzi. Allora, un po' di ordine, sorrido perché... ovvio, diciamo, il nostro Premier può avere tanti punti di forza, uno di questi sicuramente non è l'inglese, ok? Nonostante i tentativi dopo Shish e quant'altro, lo so anch'io che non si dice Italy is come back, ma Italy is coming back, perché is regge, diciamo. o dice as came back, non, comunque la frase così è sbagliata, punto. Adesso, io non so se volesse dire, se volesse dire is coming back, sta tornando sulla piattaforma europea. L'altra cosa è il petaloso. Ma perché mi devo occupare di queste cose? Allora, il petaloso è tutto, nasce da questo bambino di una scuola, se non ricordo male, di Ferrara, in cui, che aveva scritto in un tema definendo un fiore petaloso. La maestra aveva dato il rosso, però poi si era rivolta all'Accademia della Crusca, che l'ha valutato bello e chiaro. Dopodiché, perché la storia è assurda, le cronache, perché il nostro premier con un tweet ha detto grazie al piccolo Matteo, grazie all'Accademia della Crusca, una storia bella, una parola nuova, petaloso, e oggi l'ha usato. Cosa volete che vi dica? Uno ha tempo anche di scrivere questo tweet e scriva questo tweet. Fossero questi i problemi del paese, io vorrei che venissero risolte altre cose. Dopodiché tutta questa moda sui temi, petaloso, scambetto. Wow. Raffaella, grazie. Grazie Raffaella. Allora, presidente Claudio Marenzi, presidente del Sistema Moda Italia, buonasera. Buonasera. Andiamo sul traffico, poi le chiederò in realtà come buttano ste giornate della moda, al di là del fatto che il Premier abbia rivendicato, il fatto che deve diventare una tradizione che il Presidente del Consiglio venga all'inaugurazione della settimana della moda, la moda ci insegna il futuro dell'Italia, il mondo ha bisogno di noi. A chi me lo continua a scrivere, le agenzie dicono is come back, io ho capito pure così, è un errore, ok, petaloso è un errore, is come back è un errore, qual è più grave non lo so, fate voi, secondo me è quello in inglese. Però detto ciò, dopo il traffico ci racconti le prospettive, perché ho visto dei numeri importanti di presenza sia di buyers che di espositori. 349-238-6666 per i vostri sms meglio petaloso che petoso. Per favore, dai, traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Finally Italy's come back. Is come back. Adesso non abbiamo, Italy, mi sta scrivendo un ascoltatore così di rilievo, il petaloso Barisoni is come back. Ok, vabbè. Tu ti senti petaloso, per favore, mi fate condurre la puntata sui temi economici, sennò poi ha ragione chi dice, ma insomma, occupatevi dell'economia. E cerchiamo di occuparci dell'economia e della settimana della moda. Devo dire che ci dà. Cioè, ci rema contro in questo caso il Presidente del Consiglio, perché se dici is come back è petaloso, è chiaro che tutti i social si concentrano su questo. Però, dottore Presidente della Camera della Moda, del Sistema Moda Italia, mi scusi, Claudio Marenzi, buonasera. Buonasera. Lei che rappresenta l'industria, mi riferisco non solo agli stilisti, ma l'industria, chi fa poi il manufatto moda, questo è il Sistema Moda Italia. Avete chiuso il 2015 come industria con un fatturato di 62 miliardi, più 1,4% rispetto al 2014 e se ho ben visto avete un'attesa di una crescita quest'anno del 2,5% almeno sui primi sei mesi dell'anno. Cosa vi aspettate dalle esportazioni? Ma se ci dà un primo dato anche sulla presenza in questa settimana, come si chiama, Milano Fashion Week, mamma quanti inglesismi, settimana della moda. Allora, settimana della moda è in crescita, ci sono più sfilate, questo però ovviamente lo può dire anche Carlo Capasa, il presidente di Camera della Moda, ma fondamentalmente sembra che ci sia una maggiore attenzione verso la moda italiana. Quello che mi preme dire è che questi 62 miliardi, che poi se mettiamo insieme tutto moda persona arriviamo a sfiorare gli 85, rappresentano il 5% del PIL. La moda persona, per tutta la parte industriale, da lavorare a 800.000 persone, rappresentiamo il 34% di tutto il tessile abbigliamento europeo, con la seconda che è la Germania, che rappresenta il 14%. Però, detto questo, vuol dire che oltre alla moda, che sia petalosa, prego, diciamo Marenzi, che c'è fondamentalmente... Lei. No, lo dico, no, è da 10 minuti che sento petaloso. Allora, al di là della parte social, della parte bella della moda, per cui anche la parte frivola, noi rappresentiamo il 5% del PIL. In questo periodo riusciamo anche ad avere delle aziende che assumono. e per cui bisognerebbe guardare la moda in maniera molto seria come un settore importante del lavoro italiano e della possibilità di generare dei posti di lavoro. Beh, voi avete siamo stati molto impegnati in un'operazione di reshoring, di riportare in Italia le imprese che erano andate all'estero a produrre, per dirla tutta. Perfetto. E per cui insomma siamo un settore che al di là dell'aspetto, se si vuole, mediatico e frivolo, tra virgolette, porta a casa posti di lavoro. Ricordo anche che a ogni macchina da cucire c'è una persona, mentre invece molti altri settori hanno una macchina e hanno 20 macine e una persona. Per cui dire, siamo anche un settore estremamente labor intensive che insomma tutto sommato sono 570.000 adesso mal contati gli occupati nel settore della moda. Però vorrei capire una cosa, visto che prima commentavamo i dati sul fatturato delle imprese non belli a dicembre e complessivamente nell'anno c'è un segno più, un più 0,2, meglio più che meno, dicevamo, visto che era 3 anni che c'era segno meno, ma dovuto soprattutto all'export. Che prospettive avete sulle esportazioni, Russia inclusa, e se avete notato qualche segnale di risveglio sul mercato interno per quello che riguarda proprio la moda? Voi, ripeto, non fate solo i grandi stilisti, ma la moda come settore. Ecco, mi scusi, faccio ancora una precisione. Prego. Su questo. Noi non è che siamo una cosa diversa dalla moda, noi siamo la moda. Se... I grandi stilisti poi producono, non è che, per cui dire, fondamentalmente la moda e l'industria siamo esattamente la stessa cosa. Poi ci sono due organizzazioni diverse, ma di fatto la moda è chi produce, sono fondamentalmente uguali. Detto questo, noi abbiamo avuto una minor crescita nella fine del 2015 dovuta al rallentamento di alcuni mercati, soprattutto della Russia e della Cina. Per il 2016, nel secondo semestre, ci aspettiamo una leggera ricrescita del mercato russo, mentre invece per quanto riguarda il mercato cinese ci aspettiamo gli stessi numeri dell'anno scorso. Sul discorso invece dell'interno c'è una timida ripresa. Dico timida perché ovviamente stiamo parlando dell'1 e qualche cosa per cento, per cui fondamentalmente poco. Si vede una maggior crescita invece per quanto riguarda i posti di lavoro, per quanto riguarda la parte di quello che noi chiamiamo il valle della nostra industria, che è per cui tutto quello che è l'abbigliamento, il capo finito. Mentre invece rimane fondamentalmente stabile l'occupazione per quanto riguarda la parte invece del monte, cioè del semilavorato, tessile e quant'altro, gli accessori. Allora, in bocca al lupo a lei, a tutte, soprattutto a tutte le aziende e ai dipendenti che lei rappresenta. Grazie a Claudio Marenzi, presidente del Sistema Moda Italia. Non commenterò più neanche mezzo secondo né Petaloso né l'inglese di Renzi. Andiamo sulla borsa. Mamma mia, no, non vi dico cosa sta arrivando dai social. E va bene, andiamo avanti. La borsa oggi, definirla una giornata normale, no, anche se ci ha abituato a cali dopo qualche giornata di recupero, meno 2,60% sotto i 17.000 punti, l'indice FTSE MIB a 16.700 punti. Francoforte meno 2,60 anch'essa, Parigi meno 2%, Londra meno 1,60. Dow Jones meno 0,80, euro su dollaro 1,10. Visto che è calata anche la moda oggi, UX Net-a-Porter meno 5,60, Ferragamo meno 4,5, Tod's meno 2,50, Luxottica meno 2,30%, moda lusso. Però di nuovo le banche popolari e le banche in generale meno 6,30, Pop Emilia Romagna meno 5,60, Pop Milano meno 4,90, Banco Popolare e UbiBank meno 3,60%. Come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Le banche, immagino che un po' di paura l'abbia messa Weidmann, E se commentiamo anche Mediaset, -6,15%, gli altri titoli, insomma, che, petrolio oggi ha perso un altro 3%, ed era presumibile che Eni perdesse il 2,5%, Saipem -1,50%, anche se è uscita dallo Stoxx 600. Prego Andrea. Sì, ancora sotto pressione le banche, certamente diciamo le indicazioni che sono arrivate dal presidente della Bundesbank, secondo cui appunto non si possono ignorare quelli che sono i rischi di ulteriori azioni di allentamento monetario come quello che si appresta a fare la BCE ancora a marzo, certamente hanno alimentato ulteriori alleggerimenti sul settore bancario, che è stato uno dei peggiori. L'indice europeo ha perso oltre il 3%, ma è stato purtroppo in buona compagnia, perché le auto hanno perso quasi il 4% e soprattutto i minerari, con le vendite non solo sul petrolio ma anche sul rame, sulle principali metalli, hanno perso oltre il 6%, sono stati abbondantemente il settore peggiore. E a Milano ne hanno fatto le spese ancora Popolare dell'Emilia Romagna, sì, e MPS, quelle più sotto pressione, e Banco Popolare e BPM, in attesa finalmente di sbloccare questa operazione di fusione. Mediaset invece ha perso anche parecchio, ma pesa la mancata vendita di Premium dopo un'ipotesi, l'abbiamo raccontata nei giorni scorsi, di interessamento a parte di Vivendi, -6,15%. Intanto ringrazio Andrea Fontana, c'è GR24, gli altri titoli dopo il GR, e sarà nostro ospite, ripeto, il commissario alla Spending Review Yoram Gutgeld. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri, nuove storie a Il Falco e il Gabbiano. L'uomo che ha viaggiato prima col corpo e poi con la fantasia, Ambrogio Foga. L'attore vittima della sua bipolarità, Peter Sellers. Uno straordinario uomo d'altri tempi, l'allenatore Nereo Rocco. Colui che ha fatto delle arti marziali un grande spettacolo, Bruce Lee, varcando le frontiere del sesso per uno sberleffo al potere, l'editore Larry Flint, il signore della pornografia. Tutti i giorni alle 15.30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Focus Economia. -18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mancavano nella parte di borsa anche i migliori e peggiori: di Me Group +15,60, Media Contact +8,80, Prelios +6,80, Fronte Opposto invece Full Six -10, Visibilia Editore -10, Tewind -9,50 percento. Male oggi anche Fiat -4% e CNH Industrial -4,30. Invece positiva Exor anche nel finale +1,34%, come Italcementi, l'unico altro titolo positivo tra quelle maggiore capitalizzazione, +0,70%. Allora, la mitica Spending Review, perché negli ultimi giorni c'è stato un balletto di cifre. Prima sembravano 45 miliardi, poi il Premier ha chiarito 25 miliardi di riduzione della spesa e rimodulazione della spesa, includendo anche il 2016. Dunque, lo scorso anno il documento di programmazione economico-finanziaria aveva indicato un effetto per quest'anno della Spending Review di 10 miliardi di euro, che poi, secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dalla Ragioneria dello Stato, sono scesi a 7 miliardi, parte dei quali con tagli definiti semi-lineari. Poi ricordo che quest'anno dalla riduzione della spesa dovranno arrivare comunque parte dei soldi che servono per disinnescare le clausole di salvaguardia, quelle che se no scattano in automatico e aumentano l'IVA, valgono 15 miliardi. Alcune cose oggettivamente sono state fatte, penso per esempio alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, chi può indire una gara per comprare una fotocopiatrice o i cerotti, sono scese da 30.000 a sole 35, però insomma sulle cifre c'è un po' di confusione. Ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento il consigliere economico di Matteo Renzi e commissario alla Spending Review, Yoram Gutgeld, buonasera. Buonasera. Ascoltiamo che cosa ha innescato le polemiche più recenti sull'ammontare dei tagli, ossia la relazione della Corte dei Conti. Già ricordavo Gutgeld che ha apprezzato la riduzione delle stazioni appaltanti, però Raffaele Squittieri ha detto attenzione, la Spending Review è un parziale insuccesso, traduco io, anche per la poca conoscenza delle diverse categorie di spesa, e ha posto sullo sfondo il tema essenziale dell'interrelazione con la qualità dei servizi. Cerco di forzare traducendo: meno conosci le e entri nelle singole piccole voci, che magari possono valere decine di milioni di euro o al massimo centinaia, più rischi di fare dei tagli che comprimono il servizio, e non è quello l'obiettivo, non è ridurre la qualità del servizio. Sentiamo questo passaggio di Squittieri. La Corte è dell'avviso che il parziale insuccesso o comunque le difficoltà incontrate dagli interventi successivi di revisione della spesa siano anche imputabili ad una non ottimale costruzione di basi conoscitive sui contenuti, sui meccanismi regolatori, sui vincoli che caratterizzano le diverse categorie di spesa oggetto dei propositi di taglio. Ciò ha generato, nel dibattito di politica economica, proposte di razionalizzazione che non offrono più scorciatoie percorribili in direzione di un'efficace spending review e che sembrano porre solo sullo sfondo il tema essenziale dell'interrelazione tra spesa pubblica e qualità dei servizi resi alla collettività in nome della priorità assegnata all'obiettivo di riequilibrio dei conti. In altri termini, i risultati conseguiti, che sono importanti a livello di dati aggregati, nascondono i segni delle rigidità e delle difficoltà incontrate nella scelta delle modalità di contenimento della spesa. E poi oggi è anche il tema, di una spesa pubblica che lo scorso anno è aumentata di 52 miliardi. Questo è il dato del centro studi di un'impresa, l'Unione Nazionale delle Piccole Imprese. Andiamo però con ordine, perché qua le cifre sono circolate. Prima il Ministero dell'Economia e Finanza ha detto in due anni risparmi per oltre 43 miliardi, poi Renzi ha chiarito no, complessivamente sono 25 miliardi, compreso quest'anno, contro i 20 stimati da Cottarelli. Allora, insomma, non state creando un po' di confusione sulle cifre, nel senso che se tu metti il 2016 che deve ancora esplicarsi, lo sommi al 2015, e poi la sensazione che nel 2015 per vari motivi la Spending Review non abbia portato tutto l'esito atteso è più di una sensazione, Gutgeld. Innanzitutto buonasera a tutti. Iniziamo con qualche fatto oggettivo. Noi abbiamo fatto quest'anno, quindi quando dico abbiamo fatto sono leggi, quindi sono fatti, una riduzione delle tasse di 29 miliardi quest'anno, e una riduzione del deficit che è passato dal 3% al 2,4%. Tra l'altro nel frattempo abbiamo investito nella scuola, nella sanità, nelle forze dell'ordine e della sicurezza, e più altre cose che abbiamo fatto. È evidente che non si può fare questa manovra in un periodo peraltro di bassa crescita senza una vera e forte riduzione della spesa. Quindi il numero, l'unico numero a cui attendersi, che è stato pubblicato in questi giorni sia direttamente dal Ministero dell'Economia sia dal sottoscritto, sono 25 miliardi di tagli di capitoli di spesa. Questi sono i numeri che... Compreso il 2016, così ci chiariamo anche su questo. Però sono leggi, non sono riduzioni di stanziamenti, quindi queste sono riduzioni che avvengono, non c'è dubbio sul fatto che avvengono queste riduzioni. Questa riduzione, assieme alle misure contro l'evasione, ci hanno permesso di fare questa riduzione così importante delle tasse e allo stesso tempo ridurre il deficit. Il 2,% che è il numero di quest'anno è il numero più basso dal 2006, il numero è il secondo più basso negli ultimi 15 anni. Quindi i risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti e non si spiegano se non ci fosse questa forte riduzione di spesa. Là qua vado invece al commento. No, mi scusi, prima di andare al commento, di questi 25 miliardi, sì, quanta parte deve esplicarsi, deve crearsi, insomma, nel 2016? Ma insomma, allora, quest'anno abbiamo aggiunto attorno alla legge di stabilità dell'anno scorso attorno a 7 miliardi, più c'è qualcosa che viene trascinato dagli anni prima, però sono riduzioni di trasferimenti, quindi non c'è dubbio sul fatto che questi avvengano, non sono, definiscono stanziamenti di bilancio, quindi sono certi. Poi è chiaro che noi in parallelo stiamo facendo tutti gli interventi invece strutturali, perché accanto a questa dieta, quindi riduzione di trasferimenti, c'è invece un cambiamento di stile vita, cioè la pubblica amministrazione diventa più efficiente, quindi in grado di assicurare i servizi, anzi aggiungere nuovi servizi, come abbiamo fatto per esempio l'anno scorso, finanziando per la prima volta la possibilità per 32.000 malati di ottenere il farmaco contro l'epatite C, una spesa per 500 milioni di euro, tanto per essere chiaro. Quindi questa riduzione che stiamo facendo da un lato serve proprio per dare servizi in più. Quindi sul fatto che questi numeri ci sono, non c'è dubbio, peraltro questi numeri sono quello che ci permettono poi di fare la riduzione delle tasse, che ci permettono di fare l'investimento sulla scuola, sulle forze dell'ordine, sulla sicurezza e così via. Vorrei commentare un secondo invece il commento del Presidente della Corte dei Conti. Ecco, sì, detto questo, è ovvio che non riguarda lei, faccio notare però che c'è stato comunque un aumento della spesa pubblica di 52 miliardi. Allora, non c'è stato un aumento della spesa pubblica di 52 miliardi, questo numero è semplicemente fuorviante. Mi scuso perché diciamo che noi i numeri abbiamo molto accurati per controllare i capitoli di spesa, non sono molto molto semplici da lettura. Questi numeri sono in realtà dei giri contabili. Faccio un esempio perché se no non si capisce. Quando uno paga l'IVA, paga l'IVA che incassa meno l'IVA che ha pagato i suoi fornitori, no? Quindi c'è l'IVA lorda che incassa e l'IVA netta che paga. Noi fino al 2015 il conto, nei conti dello Stato, appariva il numero netto, quindi se uno incassava 8 e pagava i fornitori 2, il numero che appariva era 8. Quest'anno, per il cambiamento fatto sulla dichiarazione precompilata, per una parte invece si dichiara, nei conti dello Stato si compare il numero 10 in entrata e il 2 in uscita, quindi compare un'entrata fiscale più alta e costo e spesa più alta. Questo vale una decina di miliardi. Non ha cambiato nulla, né nella spesa né nelle entrate, è solo una classificazione contabile diversa. E fenomeni di questo tipo spiegano questi 40 miliardi di più. Non ci sono, peraltro se ci fossero 40 miliardi di più lo Stato fallirebbe. Quindi allora, capisco che questi numeri non sono molto chiari, ho preso l'impegno con il Ragioniere Generale dello Stato, a partire dal mese prossimo, quando ci saranno i consuntivi di spesa del 2015, di pubblicare in modo chiaro i numeri della spesa, e lo faremo per 2015 e su base trimestrale del 2016 ogni trimestre daremo disponibilità e visibilità su come sta andando davvero la spesa pubblica. Quindi la spesa pubblica non aumenta di queste cifre. Tornando alle parole del Presidente della Corte, quindi se ho ben capito, questi 45 questi 40 miliardi, 40, sono dovuti a una ricontabilizzazione della spesa? Sono ricontabilizzazione, allora ci sono lì questo giro dei tributi, dell'IVA che dicevo, c'è dentro una cosa ancora più ostruosa che sono l'eliminazione dei residui passivi, non cerco neanche di spiegare a chi ci ascolta di cosa si tratta, sono effetti sostanzialmente di natura contabile. Sì, però allora Gurga, fate chiarezza su questo, perché adesso io ovvio che prendo, lo dico anche agli ascoltatori, non ho motivo per dubitare di quello che lei dice, però non è che noi possiamo andare avanti a commentare cifre che escono, 40, 52, fossero anche solo 40 miliardi in più di debito pubblico, di spesa pubblica, scusatemi. Lei ci dice, attenzione, è il modo in cui abbiamo ricontabilizzato e ricalcolato, per esempio, IVA. Va bene, fate un comunicato il prima possibile, chiarite con la Ragioneria dello Stato che cosa vuol dire, perché sennò per noi diventa impossibile, un po' come avvenne con i numeri sul mercato del lavoro, a suo tempo diventa impossibile informare, perché se c'è un balletto continuo di cifre, allora chiarite che è solo un elemento contabile, non è cambiato l'ammontare reale della spesa della pubblica amministrazione, perché su questo si sta scatenando qualunque cosa. Comunque adesso andiamo sul traffico e poi vorrei invece tornare sulla Corte dei Conti. Focus Economia. Allora, Joram Gutgeld, veniamo al rilievo della Corte dei Conti, in cui dice: il parziale insuccesso della spending review deriva dalla poca conoscenza delle categorie di spesa. Quando ce ne siamo occupati anche con chi, azienda italiana, ha fornito il software alla Gran Bretagna, al governo Cameron, per fare la spending, abbiamo capito una cosa chiarissima, cioè che i tagli devono essere molto mirati e molto dettagliati, perché altrimenti se fai un taglio lineare comprimi delle voci di spesa che poi riesplodono, perché il soggetto pubblico locale o nazionale deve erogare il servizio. E quindi abbiamo fatto l'esempio delle diete, in cui se perdi troppi chili subito poi le rimetti su. Una dieta sana è una dieta che ti fa perdere pochi chili ma costantemente ti mantiene a quel livello di peso, in questo caso di spesa. E la Corte dei Conti sottolinea anche che c'è il rischio di erogare o di danneggiare, mi scusi, il servizio erogato. La sua osservazione riguardava non quello che è stato fatto negli ultimi due anni, ma gli sforzi precedenti. Ma la preoccupazione è giusta, perché è chiaro, se uno taglia in modo forte come è stato fatto, il rischio sui servizi c'è e quindi va evitato a ogni costo. È questo proprio il motivo per cui noi abbiamo messo in piedi i meccanismi che garantiscono il miglioramento di efficienza vero della pubblica amministrazione. Partire dal sistema degli acquisti di cui lei ha parlato, non è solo Conti, ma abbiamo creato un sistema anche con le regioni, con le grandi città, per cui c'è un sistema unico che adesso governa gli acquisti. Sui comuni stiamo utilizzando proprio il parametro di costi standard, per cui adesso le risorse messe a disposizione dei comuni non sono quelle storiche, ma sulla base dei costi standard. Se ne è parlato di questi per anni, noi l'abbiamo fatto a partire dall'anno scorso, e poi con un percorso graduale ogni anno questo percento di risorse messe a disposizione dei comuni sarà sempre di più basato sui costi standard. Sulla sanità abbiamo messo nella legge di stabilità il concetto che gli ospedali pubblici, che sono grandi strutture, devono garantire sia una performance dal punto di vista economico stabile, ma anche dal punto di vista clinico. Quindi è un intervento proprio che va a lavorare sull'efficienza e sulla qualità del servizio degli ospedali. Tutte le manovre adesso di efficienza che facciamo nella sanità servono proprio per, mantenendo le risorse all'interno del sistema, per garantire nuovi servizi. Significa nuovi farmaci, ho parlato prima del farmaco contro l'epatite C, abbiamo bisogno di dare più servizi domiciliari per la cura di malati cronici, più prevenzione. Tutto questo verrà garantito attraverso questi risparmi. Quindi è proprio questo l'attività che adesso ci guida e che ci deve garantire miglior livello di servizio per i cittadini. Allora, vediamo una cosa, Gutgeld, perché poi voi sostanzialmente respingete quasi al mittente l'accusa, l'ha fatto anche il Presidente del Consiglio. È indubbio che aver ridotto le stazioni appaltanti è una cosa positiva, e anche la Consip, utilizzare la Consip per gli acquisti della pubblica amministrazione è una cosa positiva. Non è solo Consip, sono 33 centrali, 30... ma comunque insomma, è un sistema unico di acquisti. Esatto. Però dico, qual è la cosa che vi è riuscita meno? Perché insomma i dubbi, adesso lei mi dice 25 miliardi compreso il 2016, andremo a vedere quella, la parte che riguarda il 2016, però che diciamo questo impatto, o siamo tutti noi un po' addormentati, ma che questo impatto, questa gran revisione non si sia vista nell'attività di tutti i giorni è un dato di fatto. Allora qual è la cosa secondo lei dove avete sbagliato o che non avete portato a compimento? Allora, sono tutte le cose di cui ho parlato, sono tutti interventi che per andare a compimento hanno bisogno di 3, 4, 5 anni, quindi sono cose che richiedono tempo. Forse non c'è stata abbastanza visibilità, e questo è colpa nostra, bisogna comunicarlo di più, però questi processi sono tutti in corso, ci sono centinaia e centinaia di persone all'interno della pubblica amministrazione che stanno lavorando su tutti questi filoni, quindi questi sono percorsi assolutamente avviati, dove ovviamente bisogna portare i risultati. Però i risultati sono quelli che si sono visti, cioè riduzione delle tasse, investimento nella scuola, nella sanità. Sì, no, guardi, sulle tasse lei sa, Guttke, che poi la polemica lì riguarda il fatto che è vero che poi si riducono quelle su base nazionale, su base centrale, poi aumentano quelle su base locale. No, però anche qua, scusi, questa è una disinformazione. Noi abbiamo fatto una riduzione quest'anno di 29 miliardi. Se vuole posso pubblicare, anzi, le mando la lista esattamente di questi. Cioè, quindi lei ritiene che i dati... No, no, ma, le tasse locali, scusi, perché così parliamo di numeri seri. Le tasse locali complessivamente sono aumentate quest'anno, credo, di poco più di 2 miliardi. 2 miliardi, dice la UE, 2 miliardi. Verso 29 di riduzione. Questi 2 miliardi sono in gran parte legati alla TARI, alla tassa dei rifiuti. Dei rifiuti. Dove c'è da fare molto lavoro, perché sono aziende piccole, frammentate, abbiamo tanti problemi. Però il motivo principale di questo è che noi stiamo facendo sempre di più raccolta differenziata. La raccolta differenziata costa molto di più, quindi è chiaro che il passaggio alla raccolta differenziata aumenta i costi. Vabbè, no, ma capito, allora, però, mi dica una cosa, però, Guttke, che non siete ancora riusciti a fare, così non diamo l'idea che tutto, perché sai, no, poi nella narrazione nella narrazione che tutto va bene e che le tasse sono state ridotte e quello che poi il paese vede, secondo me si crea un problema, non riguarda lei, ci mancherebbe, ma si crea un problema politico tra governo e paese, che noi vediamo molto bene perché abbiamo sempre più difficoltà. Però detto questo, per evitare una narrazione in cui tutto è stato fatto, tutto va bene, tutto è stato tagliato, che cosa manca da fare e che cosa, diciamo, o cosa non siete riusciti a fare e su cui vi concentrerete quest'anno? Prego. Allora, tutte le cose che ho detto sono lavoro in corso, nulla è scontato, anche la centralizzazione degli acquisti, sono tutte cose da fare, nulla di questo è scontato, quindi io non vorrei dare l'impressione che è stato fatto tutto, perché non è così. Abbiamo definito dei percorsi di lavoro, cioè ci sono molte persone che lavorano, c'è molte cose da fare. Cose nuove che non abbiamo ancora avviato, che sono da avviare quest'anno, se vuol parlare di questo. Tutto il tema dei servizi pubblici locali, sia raccolta rifiuti che trasporto pubblico locale, due settori importanti dove c'è ancora molto molto lavoro da fare, il percorso dell'unione, fusione dei comuni, che ha dato buoni frutti ma va accelerato, e poi c'è tutto il tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione che sta proprio all'interno della riforma della pubblica amministrazione che stiamo accingendo adesso a fare il lavoro, quindi c'è ancora molto molto lavoro da fare. Allora, chiaro che tutto questo poi va di pari passo, lo dico a chi scrive, con la riforma e i decreti attuativi della pubblica amministrazione, perché poi è chiaro che la responsabilizzazione dei dirigenti, renderli non più inamovibili, e anche per il pubblico impiego, assieme alle voci di spesa, tutto si tiene. Quando tu hai una pubblica amministrazione abituata delle volte a essere deresponsabilizzata, e deresponsabilizzata anche nella spesa. E quando ci risentiamo per fare un punto su quello che siete riusciti a tagliare quest'anno, tagliare e soprattutto rimodulare, non vorrei dare l'impressione che la spending sia solo tagli. Noi siamo sempre a disposizione. No, dico, ma quando è che farete un bilancio? Tra me e lei, che si figuri. Però ogni tre mesi, adesso spero ogni tre mesi, comunicazione sulla base dei dati veri, l'andamento della spesa pubblica, questa sicuramente può essere una buona occasione, però siccome questi sono tutti lavori in corso, c'è sempre cose nuove, quindi ci sarà sempre da raccontare e da condividere, perché lei ha ragione in una cosa, noi abbiamo un deficit di comunicazione che dobbiamo assolutamente colmare. Beh, insomma, no, Guttke, nel ringraziare a deficit di comunicazione non mi sembra che il Premier ce l'abbia, parla tantissimo, parla con tutti, in tutti i modi, con tutte le forme, no. Casomai organizzatela meglio, perché ripeto, la confusione comunque c'è. Grazie, ci risentiremo trimestralmente a questo punto per fare il punto sulla spending review. Grazie a Yoram Guttke. Da Sebastiano Barisoni lo auguro una buona serata, ci risentiamo domani con una puntata petalosa o meno di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.